Benvenuti ai podcast di Rivista Militare. L'articolo di oggi, tratto sempre dal numero 3 del 2021, ha a che fare con il benessere del militare, della famiglia, e si intitola Obiettivo qualità della vita, le agenzie di supporto alle famiglie dei militari. L'articolo è scritto da Antonio Garofalo. Il benessere del militare è anche una sintesi tra lavoro e famiglia. Lo Stato Maggiore dell'Esercito, per il tramite del 5° Reparto Affari Generali, sta attuando importanti revisioni per aumentare le attenzioni verso le esigenze del proprio personale. Nascono così le agenzie di supporto con il preciso compito di fornire al personale trasferito un aiuto morale e materiale. Le misure a sostegno del proprio personale di competenza del 5° Reparto rientrano in una profonda revisione del comparto e del concetto stesso di benessere per la Forza Armata. Le misure adottate aspirano a creare e mantenere una condizione di armonia tra la persona e l'ambiente, presupposto fondamentale per condizioni lavorative ottimali. L'obiettivo è quello di abbandonare gli stereotipi, ampliando la nozione di benessere del personale a settori non più solo limitati alla salute, ma che spaziano anche nell'area psicologica e mentale del dipendente. La promozione del benessere del personale militare, a mente dell'articolo 1829 del Codice dell'Ordinamento Militare, è finalizzata all'incremento della produttività e al miglioramento della qualità dei servizi mediante interventi in favore del lavoratore e della sua famiglia, in quanto più una persona si sente parte di un'organizzazione perché ne condivide i valori, le pratiche e i linguaggi, tanto più trova motivazione e significato nel suo lavoro. In quest'ottica, l'esercito ha elaborato un piano che mira a garantire un più alto grado di benessere psicologico e sociale per il proprio personale, mediante anche la creazione di agenzie di supporto per le famiglie dei militari. Queste organizzazioni nascono dalla necessità di assistere in maniera adeguata i militari che vengono trasferiti presso un'altra sede di servizio, al fine di porre loro stessi e loro familiari nelle migliori condizioni per affrontare il nuovo contesto personale e lavorativo. I nuovi orientamenti del 5° Reparto hanno portato allo sviluppo di un progetto volto a costituire su tutto il territorio nazionale delle realtà che hanno il preciso compito di fornire al personale trasferito tutto il supporto necessario. Le finalità sono quelle di favorire l'inserimento nel nuovo tessuto sociale, con particolare attenzione alla ricerca di soluzioni abitative, sanità, scuole, asili nido, attività ricreative, strutture sportive, offerte commerciali. Nella prima fase del progetto, nel dicembre 2020, è stata costituita l'Agenzia Nazionale di Supporto presso lo Stato Maggiore dell'Esercito e 20 agenzie regionali, pronte a fornire al personale trasferito tutta una serie di notizie inerenti a iniziative e opportunità esistenti nella nuova sede di servizio, nonché ogni utile informazione connessa con il settore alloggiativo e quello del benessere e della promozione sociale. Una particolare attenzione è stata posta all'uniformità del servizio, che deve essere facilmente accessibile da parte del militare e del familiare, con informazioni da fornire ai potenziali fruitori attraverso un sistema di funzionamento sul modello Hub and Spoke. Dal punto di riferimento nazionale Hub dipendono 20 agenzie SPOC dislocate in ogni regione amministrativa all'interno di comandi militari costituite da personale con specifica esperienza nel settore individuato nell'ambito dell'ente. Costituiscono il punto di contatto primario per il personale in afflusso nell'area di interesse, sia in modalità front office sia di call center, e svolgono funzioni di information desk nella regione di competenza. Il loro compito è di gestire gli alloggi di servizio e le relative modalità di richiesta, gli organismi di protezione sociale e la loro fruizione, circoli unificati, foresterie, servizi alloggiativi, asili nido, centri ricreativi, soggiorni, stabilimenti militari, strutture sportive di forza armata. Le convenzioni nazionali stipulate a favore del personale dell'esercito, nonché l'implementazione del settore delle offerte commerciali con gli operatori pubblici e privati, gli indirizzi e i numeri di telefono degli uffici comunali, provinciali, delle strutture sanitarie e delle scuole pubbliche e private, i musei, teatri, principali centri commerciali e ogni altra informazione ritenuta utile. Sulla scia del forte entusiasmo mostrato per il programma nei primi mesi di quest'anno, è stata avviata la seconda fase del progetto, caratterizzata dalla costituzione delle subagenzie in ogni ente della Forza Armata, con l'ambizioso obiettivo di offrire un servizio capillare su tutto il territorio. Una sfida, quella di migliorare la qualità della vita dei militari che nella creazione di questo sistema di agenzie ha segnato un altro passo in un cammino di costante ricerca e ascolto delle esigenze dei propri addetti, consapevoli che un militare sereno è un militare più disponibile ed affidabile.